Secondo me, come le squadre dei veterani, come inizio di preparazione, è abbastanza a buon punto. Ovviamente ci sono molti mesi al gallo europeo, devono lavorare, perché molto tempo, molti che non fanno niente. C'è il problema dell'infortunio tuo, che è fondamentale, e soprattutto prepararsi fisicamente per non subirne altri, perché il problema di giocare a questa età è che le ordini del cervello è molto buono e il fisico a volte non regge o esegue male. Però è stata una buona partita, credo che ci sono grossi margini di miglioramento. Hai fatto un accenno su giocare come abbiamo sempre fatto, quindi con tanta grinta. Ma soprattutto che secondo me c'è una questione di abitudine, cioè siete tutti giocatori sempre abituati a giocare per vincere, a giocare per cose importanti. Adesso, siccome una cosa ludica, si gioca così ridendo, eccetera. Io credo invece che se uno vede dei bambini giocare, vede che è la cosa più seria che fanno. Cioè, non è che per divertirsi bisogna per forza ridere, bisogna, secondo me, giocare veramente, perché credo che chi ha giocato per 20-25 anni di un modo non riesce a giocare un altro bene, e soprattutto non è che dopo all'europeo uno spinge un bottone e lì si fa sul serio, quando tutta la preparazione si fa in modo più o meno così, ci divertirsi e non prenderla troppo sul serio. Secondo me invece ci si diverte di più, come quando uno gioca a calcetto, giocando al massimo, poi si va a cena, si ride, si scherza e fanno tutte le battute. Grazie e in bocca al lupo anche a te.